sa da dove arriva e né quando né perché. Sarà forse che dormiva in un angolo di te, ma poi basta un sorriso incontrato per la via e ti senti come acceso da una splendida follia. L'amore, l'amore si nasconde. Tu lo chiami e non si nasconde fino a quando non lo chiami, resterà rinchiuso dentro te. Canzone nasce muta ma sa già che diventa un'emozione che paura più non ha. Ed è allora che ti prende quella scossa dentro te. Non si compra e non si vende, si nasconde però c'è. L'amore, l'amore si nasconde. Tu lo chiami e non risponde se lo vuoi. Si nasconde fino a quando non lo chiami, resterà rinchiuso dentro te. All'amore, l'amore si nasconde. Fino a quando non lo chiami, resterà rinchiuso dentro.